Antonio Caronia. Curioso il titolo del suo libro, Zuppa di vetro, vedremo perché si chiama così. Il titolo è criptico, però sempre meno dopo che si sono superate le prime, neanche tanto, 10-20 pagine. Questo è il terzo libro di Jonathan Carroll che esce per la Fazzi e il quarto in assoluto in Italia. Jonathan Carroll fu introdotto nel mercato italiano dalla Phoenix Edizioni, che pubblicò il primo romanzo che si chiama Il demone di mezzanotte, poi adesso lo ha ripreso Fazzi. Allora, chi è Jonathan Carroll? Jonathan Carroll, quando gli si chiede chi è, lui dice: sono uno scrittore americano che vive a Vienna. E questo forse spiega anche la sua idiosincrasia per raccontare la sua vita, eccetera. Quindi sappiamo poco di lui. Vi leggerò brevemente quattro righe che scrive di lui un autore acclamato, abbastanza famoso adesso sia come autore di fumetti che come autore di romanzi, che è Neil Gaiman, il quale ha più volte dichiarato che Jonathan Carroll, che ha la sua bella età ormai, perché è nato nel 49, quindi ha i suoi 55, quasi 60 anni, e scrive appunto Neil Gaiman di questo Jonathan Carroll: in un universo librario di scrittori e di narrazioni omogeneizzate e insipide, il mondo che esce dalla penna di Carroll è fresco, meraviglioso e magico come un nuovo amore, come acqua fresca nel deserto. Sono i fatti che contano. Vi innamorerete dei suoi personaggi, uomini o donne che siano, soffrirete quando stanno male, li odierete quando tradiscono o quando non ce la fanno, gioirete quando riescono a rubare un attimo di magia e di vita alla morte e al nulla. E voglio fermarmi su quest'ultima frase perché questa è forse una delle chiavi per capire. Gioirete quando riescono a rubare un attimo di magia e di vita alla morte e al nulla. È un autore che è difficilissimo etichettare perché scrive una narrativa che dalle prime pagine vi può sembrare una narrativa di genere. A volte sembra fantasy, a volte sembra fantascienza, a volte sembra orrore soprannaturale. Ci sono dei pezzettini di Lovecraft, di King. Però lui ha una sua cifra particolarissima perché è forse un esempio di quello che Freud chiamava l'unheimlich, cioè il perturbante, che però nella parola tedesca indica qualche cosa di familiare che all'improvviso ci si svela non familiare. L'ambientazione dei romanzi di Carroll è sempre terribilmente realistica, personaggi normalissimi, eccetera, i quali sono però in contatto con fatti strabilianti, incredibili, assolutamente fuori dalle normali esperienze che invece ognuno di noi può fare. Questo Zuppa di vetro è dedicato a uno dei temi che soprattutto l'ultimo Jonathan Carroll predilige, e che è il tema dell'aldilà. Il tema della morte è costante in quasi tutti i lavori di Carroll. Qual è l'idea di fondo? È che la morte abbia una funzione positiva per mettere ordine nella vita, per dare un senso alla vita dei singoli personaggi, di ogni persona, degli individui, e in questo modo, attraverso l'ordine che ognuno mette nella propria vita dopo che è morto, in una sorta di ordine cosmico. Quindi c'è anche una idea di Dio, ma è una divinità molto laica, non è una vera e propria persona, è un processo. E però questa possibilità di mettere ordine viene contrastata da un principio che in questa bizzarra cosmologia caroliana sino ad oggi era un principio incosciente, che invece ora, secondo Carroll, sta poco a poco prendendo coscienza, che è il caos. La storia è, sono due personaggi che sono già comparsi in appunto Mele Bianche, sono Vincent Ettrich, si chiama l'uomo, e Isabel Newcor, la donna, e Isabel Newcor è incinta di Vincent Ettrich, e il figlio che sta maturando nel corpo di Isabel è un figlio che avrà, secondo il caos, un ruolo fondamentale in questa lotta tra l'ordine che dovrebbe instaurarsi, l'ordine, virgolette, naturale, armonico, e invece questa rottura dell'ordine che vorrebbe il caos. Quindi ci sono una serie di avvenimenti che si svolgono alternativamente nella vita reale, quindi nella Vienna, perché poi il romanzo è ambientato a Vienna, che è la città in cui vive Carroll, e in questi mondi dell'aldilà. Questi mondi dell'aldilà sono dei mondi plurimi, perché ogni persona, ogni volta che è morta, si costruisce un proprio mondo con i propri ricordi e soprattutto con i propri sogni. E si può passare da un mondo all'altro a certe particolari condizioni. Allora, qui c'è una specie di lotta tra il caos e l'ordine, che ha a che fare con il destino di questi personaggi. Nel romanzo precedente Vincent è già morto e però Isabelle è riuscita a strapparlo alla morte attraverso una rocambolesca storia. Quindi Isabel è l'unico personaggio che ha la possibilità di passare a volontà e in certi casi anche non quando vuole, a sua insaputa, dal mondo dei vivi a quello dei morti, dal mondo della vita ai vari mondi in cui si articola la morte. E questo è lo straordinario fascino narrativo appunto del libro, cioè il modo di passare dall'uno all'altro di questi mondi e nel costruire dei ponti. Fino ovviamente all'esito di questo romanzo, che non vi posso rivelare perché in qualche modo c'è un qualche elemento di suspense, sempre con questa straordinaria capacità di Carroll di dare credibilità ad avvenimenti assolutamente incredibili, un po' sulla scorta di, non so, scrittori come García Márquez o Carlos Castaneda, che sono ovviamente tra gli ispiratori di Carroll, ma ripeto, con questa sua tremenda capacità di dare spunti, insomma, sul modo di creare senso nella propria vita, che forse è uno dei problemi che oggi noi abbiamo sopra ogni altra cosa. C'est l'histoire de mon histoire. Un pizzico di Francia in questa trasmissione tutta americana. Il libro di Jonathan Carroll ha per titolo Zuppa di vetro, è uscito da Fazzi Editori, 352 pagine, 13,50 €. Passiamo ad Alicia Arian, di padre arabo, poi ci racconterà lei stessa qualche particolare in più sulla sua vita, farà una specie di piccolo autoritratto. È qui in Italia per il suo romanzo che è uscito da Adelphi e abbiamo l'occasione con lei di parlare anche di politica, proprio per questa sua origine, e sia perché si dice molto interessata agli argomenti politici e più tardi si definirà femminista, e forse questo suo dichiararsi femminista ha a che fare anche con una parte del romanzo. Difatti abbiamo come protagonista Jazeer, anche qui il nome interessante, un adolescente che è all'interno di una famiglia un po' travagliata. Difatti c'è questa frase che giustamente viene ripresa un po' ovunque, anche nel risvolto di copertina, che dice: il fidanzato di mia madre si è preso una cotta per me e lei mi ha mandato a vivere con papà. C'è una donna che si prende cura in qualche modo di Jazeera, che quindi ha un ruolo di crescita, riesce in qualche modo a riempire la sua dimensione affettiva così carente che la ragazzina cerca di riempire con il sesso. È uno sguardo freschissimo quello di Jazeera, e nello stesso tempo chiediamo adesso ad Alicia Arian di dirci chi è lei, quanti anni ha, da dove viene. Actually, I'm 38. My background is my father is Egyptian and my mother is predominantly of Polish descent, although her parents were not directly from Poland. In realtà ho 38 anni e per quanto riguarda il mio background culturale, mio padre era egiziano, mia madre di origini polacche, anche se i suoi genitori non erano polacchi, però i nonni lo erano. Ho cominciato a scrivere alla fine degli anni 80, quando ero ancora all'università, poi ho trascorso un certo periodo della mia vita in Europa dopo il college e continuavo a scrivere. E per lo più ho fatto dei lavori a tempo determinato come segretaria, oppure ho fatto le proiezioni in un cinema. Jazeera è l'adolescente protagonista del romanzo ed è un nome che pesa, perché non è esattamente Al Jazeera, l'emittente nota in tutto il mondo, ma il nome è uguale. Ha tenuto conto di questo, ha voluto che fosse un nome che subito creasse certi effetti nel lettore? Yes, I was thinking of Al Jazeera, that television station. Also, I don't speak Arabic, but when I was searching for names, I was looking at the meanings. Sì, pensavo proprio al Jazeera quando ho scelto il nome di questa ragazzina. Tra l'altro io non parlo l'arabo, però nella scelta del nome da dare al mio personaggio avevo anche considerato quelli che erano i vari significati di alcuni nomi in arabo, e in arabo Jazira significa isola, e mi è piaciuto immediatamente questa associazione, il significato quindi di questa parola, perché in effetti il personaggio mi sembra sicuramente un personaggio molto solo. Contemporaneamente anche il mio era un tentativo di andare un po' contro, di stimolare per così dire i lettori americani che avrebbero collegato questo nome di questa ragazzina ad una televisione che loro considerano peraltro essere una stazione di terroristi, che non dice affatto la verità, mentre secondo me a volte ci sono dei validi servizi televisivi che vengono trasmessi. E quindi mi piaceva questa idea di questa ragazzina verso la quale tutti cercano in un qualche modo di essere amichevoli, che fosse associata a questa stazione televisiva invece che non piace alla gente, in modo particolare agli americani. E lo sguardo di questa ragazzina è molto diretto, molto fresco e per certi versi anche provocatorio. La chiamano beduina a scuola. La vulgata che c'è in Europa è che soltanto dopo l'11 settembre da parte degli americani ci sia stato qualche atteggiamento razzistico nei confronti di chi proveniva dal Medio Oriente. Qui siamo prima della guerra del Golfo con la ragazzina che va a scuola. Le chiedo se un disagio di questo tipo razziale, diciamo, esisteva anche prima dell'11 settembre. I think Americans' attitudes toward the Middle East became I think Americans began their interest in racism in terms of the Middle East. Gli americani hanno un rapporto nei confronti del Medio Oriente che è cominciato dopo la prima guerra del Golfo e quindi è sfociato in una sorta di razzismo dopo la prima guerra del Golfo. Questo perché gli americani normalmente non sono politicamente ben informati. Se scoppia una guerra e questa guerra viene mostrata alla televisione, ecco che a quel punto gli americani si informano. E in questo caso la prima guerra del Golfo ha ricevuto una grossa copertura televisiva, quindi la gente ha cominciato a informarsi sul Medio Oriente e il fenomeno è cominciato allora molto pesantemente. Prima di allora non era una tendenza molto forte. Mi ricordo però che mio fratello a scuola veniva proprio chiamato gli stessi nomi che viene chiamata Jazira, anche se non in modo cattivo. Lui faceva parte di un team di rematori, di canoa faceva, e i suoi compagni lo chiamavano sempre questi nomi con affetto. Mi ricordo che lui me lo raccontava e ridevamo perché ci sembrava un'idea strana, nuova, insomma qualcosa di nuovo. Diciamo che il processo è stato lento, la diffusione di questo tipo di razzismo è stata lenta. Gli americani si sono trovati in una posizione un po' di confusione, perché coloro che volevano supportare, sostenere la guerra contro l'Iraq dovevano difendere questa guerra dicendo che gli americani andavano in Iraq per difendere gli iracheni, però nello stesso tempo si creava appunto questa sorta di confusione perché c'era comunque un approccio di tipo razzista, gli arabi non piacevano loro, però nello stesso tempo questi arabi andavano salvati. Quindi quando io sento un conservatore americano che difende la guerra penso dentro di me, ma probabilmente a te non piacciono neanche gli arabi. E sicuramente poi il fenomeno del razzismo nei confronti del Medio Orientale è aumentato in modo considerevole dopo la seconda guerra. Lei si sente più araba che polacca o si sente americana al 100%? Well, I feel 100% American, but in terms of my politics I feel... Direi che mi sento al 100% americana, anche se politicamente mi identifico con una politica moderata, anche se non sono al 100% sicura di sapere che cosa intendo per politica moderata nei confronti degli arabi negli Stati Uniti. Potrei fare un'ipotesi e penso che in fondo questa ipotesi potrebbe anche essere accurata. È anche vero che alcuni arabi sostengono il governo repubblicano, e questo era più vero, questo atteggiamento, durante la prima guerra del Golfo. Invece attualmente gli arabi non sono affatto compiaciuti o soddisfatti del modo in cui stanno andando le cose. I can say that I consider myself 100% American, but I should say that probably Americans who look at me of European descent Io posso dire di sentirmi al 100% americana, ma forse non è quello che pensano gli americani che guardano a me, non mi considerano magari di origini europee, perché appunto ho la pelle più scura della media degli europei. Come mi vedo io non necessariamente è come mi vedono gli altri, perché spesso mi si rivolge la parola in spagnolo quando sono negli Stati Uniti, oppure adesso che sono in Italia potrei passare tranquillamente per un'italiana. Quindi come mi vedo io è una cosa, come mi vedono gli altri è un'altra cosa, soprattutto gli americani, perché sono molto attenti al colore della pelle. Da una parte, sia per la ragazzina, la beduina, sia per quanto ci sta dicendo adesso, questa è una componente dell'esperienza dolorosa, diciamo, complicata. Invece dal punto di vista letterario, artistico, è un punto di forza, un po' a partire dall'università da parecchi anni, la questione della differenza, dell'origine, dell'appartenenza etnica e così via è diventato un momento di riflessione, un momento di forza identitaria, e dall'altra la scrittura si basa su questi elementi. Lei avverte questa contraddizione tra il doloroso e la grande potenzialità non solo nella letteratura ma anche nel cinema, per esempio? I think that all the best stories are painful because the best stories have high tension and high conflict. Tutte le storie migliori sono dolorose e le storie migliori infatti sono caratterizzate da un alto livello di tensione, da un alto livello di conflitti, e da qui che deriva poi il dramma della storia. Quindi il dolore è indispensabile per fare una buona storia. Io insegno scrittura creativa e dico ai miei studenti immediatamente che occorre avere un conflitto, appunto rappresentare un conflitto, cosa che normalmente loro cercano di evitare, e lo dico perché appunto il dolore serve al mio scopo di scrittura. Insegno a degli studenti normalmente che provengono da ogni parte del mondo, sono pakistani, asiatici, medio orientali, da ogni parte del mondo, e il mio consiglio pratico da donna, brava donna d'affari, è di scrivere sul proprio background culturale, perché la propria esperienza è interessante e l'esperienza è universale. La correttezza politica dice che è bene appartenere ad un certo gruppo etnico culturale, quindi questo non è assolutamente qualcosa di negativo, e questo poi insegna ad opporsi, a resistere comunque alla tolleranza, perché la tolleranza offre ben poco, è l'opposto dell'abbracciare la diversità. La parte integrante dell'appartenenza ad un gruppo è quella anche di promuovere l'idea appunto che la diversità non è qualcosa da tollerare, ma è qualcosa di entusiasmante, di eccitante. Per quanto riguarda la cinematografia, ricordo che quando appunto lavoravo come proiezionista di film e lo facevo per un cinema d'essai in cui facciamo vedere cinema stranieri, film stranieri, indipendenti, quindi non quelli hollywoodiani, era suddiviso in quattro sale, quindi proiettavamo diversi film e vendavamo assolutamente più biglietti quando il film stava a rappresentare un segmento specifico di un gruppo culturale. Non so, per esempio un film sulla Cina, beh, andava esaurito, perché negli Stati Uniti i cinesi non hanno un flusso costante di film cinesi, quindi venivano a fiotte proprio perché si vedevano in questo modo rappresentati sullo schermo. Lo stesso valeva anche per i film gay, chiaramente non si tratta qui di un gruppo etnico ma comunque di un gruppo culturale, quindi comunque il gruppo specifico, che sia etnico o culturale, è entusiasta di poter vedere se stesso rappresentato sullo schermo. Abbiamo chiuso Sabato Libre con Alicia Arian. Il suo libro si chiama Beduina, un romanzo che vede come protagonista la ragazzina Jazeera, uscito da Adelphi, 18 euro, 349 pagine. Grazie per l'ascolto da Bruna Miorelli, ci sentiamo sabato prossimo sui libri. Ciao a tutti. Quando i frutti si sceglievano per il gusto e non per la facilità di imballaggio, ne esistevano decine di qualità. Domenica 13 novembre il consorzio Terre Alte, col contributo della provincia di Lecco, organizza i Giardini della Biodiversità. Una festa per recuperare sapori e vecchie sapienze. Dalle 10 piantumazioni di alberi antiche, visite guidate e pranzo di una volta. E per ogni 25 euro di spesa un buono sconto di 5. Domenica 13 nelle aziende del consorzio Terre Alte. Prenotate al 333 76 55 188. Festa @terre-alte.com. Secondo appuntamento con un diverso sentire. Lezioni concerto sulla tradizione musicale araba presentate dalla Biblioteca e dalla Civica Scuola di Musica di Cinisello Balsamo in collaborazione con la Provincia e l'Arci di Milano. Sabato 12 novembre alle 21, dialogo sulla musica araba di tradizione classica. A Cinisello Balsamo, Villa Ghirlanda, in via Frova 10. Informazioni allo 02 66 02 35 52. Chi fa da sé fa per tre, chi fa da Brico Io fa ancora meglio. Oltre 25.000 articoli in offerta e fino al 20 novembre specchiera bagno in legno laccato bianco, 48,90 euro. Brico Io, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 20 e nei weekend orario continuato fino alle 20. Brico Io, a Piantedo, fine superstrada all'Ecco Colico, via La Rosa 155, di fianco al Fuentes. Casting Migra 260esima. Nome? E Samantha! Cosa fai se un ragazzo non è alla tua altezza? Mille tacchi! Cerchi l'anima gemella? Gemella, toro, pesci, è uguale! Avanti un'altra. Non tutte le donne sono fatte per Nissan Micra. E con Nissan Finanziaria è tua con microrate da 99 euro al mese. E inizia a pagare dopo 6 mesi. Chiama l'800 105 800. TAN 595, TAG 792%. Avete l'esigenza di pulire uffici, condomini, negozi, appartamenti e quant'altro? Chiamate Tutto Service allo 02 33 14 523 oppure 339 66 33 858. E se volete imbiancare o ristrutturare, Tutto Service fa anche quello. 30 anni di biodiversità non potevano che generare il gigantesco bruco del Parco Nord Milano, dove ogni bambino potrà giocare con il più grande tubo sonoro del mondo. L'ingresso costa una lattina vuota fino al 20 novembre, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 17. E per la giornata mondiale dei diritti dei bambini, domenica 20 si festeggia il diritto di fare chiasso, insieme al Coro Bimbo Festival con Elisabetta Viviani. Al Parco Nord Milano, in via Clerici, angolo Fulvio Testi, 02 24 10 161, parconord.milano. Natale con Casa Più Arredamenti. Fino al 15 dicembre sconti dal 20 al 45%. Valutazioni stellari dell'usato e pagamenti rateali fino a 5 anni con prima rata Natale 2006. Casa Più ti aspetta anche la domenica a Pieve Fissiraga in via Da Vinci 20, zona centro commerciale. Telefono 0371 21 381. On the road. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi farà viaggiare in treno. Che stiamo ascoltando è la colonna sonora dell'orchestrina che accompagnava i viaggiatori del mitico Orient Express. Infatti i suoni dell'orchestrina sono sporcati dallo sferragliare del treno. Questa era l'orchestrina intenta ad eseguire un musette fantasy alla partenza dalla stazione di Parigi in un lontano 1905. Ma il nostro viaggio, quello odierno in treno grazie ad On the Road, inizia su un altro mitico treno, non sull'Orient Express. Il nostro è il treno di Tito, il più famoso maresciallo della ex Jugoslavia. Era il treno con cui si spostava nel paese e anche quello che ha portato la sua salma nel suo ultimo viaggio. Da un anno il treno di Tito ha ripreso a sferragliare per il paese, o per quello che ne è rimasto. Sanja Lucic ha parlato con un ferroviere di questo treno. Per quanto tempo lei è stato il capotecnico del treno di Tito? Ma Grande, ne mogu tačno reći, ali sigurno da sam prešao preko 150.000 km. On ne mogu 150, ali recimo 120.000 km sigurno. Pa, znate, to je sad za današnju Lui dice che ha percorso con questo treno circa 120.000 chilometri in generale, perché lui non ha accompagnato Tito solo al suo ultimo viaggio, ma in generale viaggiava spesso con lui. Diceva che magari adesso è strano raccontare questa cosa qua per i giovani che non riescono a capire cosa succedeva, però comunque succedeva che quando passava il treno azzurro, in ogni fermata, ma anche lungo i binari, c'erano delle persone che aspettavano Tito, anche se lui non compariva sempre sulla finestra. E quindi, siccome il treno aveva due parti, quelli della prima parte avvisavano Tito quanta gente c'era e quindi lui si affacciava sulla finestra per salutarli. Predsjedniku da ima toliko sveta i on se pojavljivao na prozoru da pozdravi u prolazu narod koji ga dočekao. S jedne strane, s druge strane smo mi u vozu sa mojim, što kaže, naređenjem usporavali na toj stanici da voz ide sporije. In quanti eravate a lavorare sul treno? Pa ne često, to je moja obaveza bila i kada sam 8 godina održavao tu tehniku na vozu. Dice che lui, siccome era capo tecnico per 8 anni, quindi lui era sempre su questo treno. In generale lavoravano 20 persone, ma tutte queste persone non viaggiavano con treno azzurro. Nella prima parte c'era gente come lui, ma in seconda parte con Tito era proprio il personale stretto di Tito. Delu su automobili, officiri, pratnja, u drugom delu je. Allora, lui diceva che il treno azzurro aveva questa prima parte, che era parte tecnica, dove c'erano anche le macchine, e l'altra parte del treno, quella diciamo vera, più importante, aveva 10 vagoni. Il treno in totale aveva davanti un vagone che era un vagone tecnico, e stesso era anche indietro, tutti e due facevano sì che non mancasse elettricità in treno. Quindi se uno si guasta, quello dietro faceva sì che c'è sempre la corrente. Dopo erano tantissimi vagoni letto, poi quel vagone che era proprio dedicato a Tito e a sua moglie Jovanka aveva un bagno, aveva un piccolo salotto, diciamo, chiamiamolo così, poi un grande salone con un tavolo dove ci stavano 28 persone, poi anche una cucina dove si poteva cucinare per 150 persone, quindi 150 persone potevano fare colazione, cena, pranzo, qualsiasi cosa. E poi c'era anche parte per gli ospiti, saloni con 5-6 cabine letto e, come diceva, vagoni con 10 cabine. Saloni. Naši ljudi su gordi na svoju muku, trpku, historiju, gordi su na svoju narodnooslobodilačku borbu, gdje su tako krvavo platili, koji su tako krvavo platili svoju slobodu. I nije čudo da oni danas tako ljubomorno čuvaju taj sopstvenu slobodu. Tanti personaggi importanti viaggiavano sul treno, Brezhnev, Arafat. Lei si ricorda qualcuno? Brezhnev non è putovo su voce. Dice che Brezhnev non ha viaggiato con il treno azzurro, ma tanti altri presidenti dei stati sì, soli e anche con Tito in treno, quindi anche quando viaggiavano da soli questi viaggi erano organizzati come se Tito ci fosse dentro, quindi con la stessa diciamo le stesse cerimonie di onore, stessa sicurezza, eccetera. Si ricorda dell'ultima volta che vi siete parlati? Io ho tim putovanjima bi mogo, sto kaže, sigurno par sati pričati. ha visto Tito praticamente per il capodanno dell'anno precedente alla sua morte, quando è sceso, perché Tito ha festeggiato questo capodanno ai Brioni, e quando è sceso dal treno lui l'ha salutato con questo saluto che di solito fa uno che porta questo treno come capo tecnico, diciamo, e Tito si è allontanato 30-40 metri e poi improvvisamente è tornato indietro, e nessuno delle persone che gli stavano intorno sapeva perché adesso stesse tornando indietro. E lui, signor Vučković, si era un po' anche confuso dicendogli tutto a posto, perché sta tornando indietro, e lui ha detto: capo, mi sono dimenticato augurargli buon anno nuovo perché non ci vediamo per un anno intero. E dice lui che era veramente molto commosso di questa cosa qua, e gli ha detto: non so neanche se sono riuscito a dire due o tre frasi collegate, perché gli ho detto magari che gli auguro buona salute e lunga vita, però lui purtroppo ha vissuto solo un anno ancora dopo questo nostro incontro. Le piacerebbe fare un viaggio sul treno azzurro come turista? Allora lui dice che siccome lui conosce bene un treno veramente benissimo, quindi adesso non conosce gente che si occupa in questo momento del treno, però siccome ha viaggiato tantissimi chilometri con questo treno, lui dice praticamente quasi un anno e mezzo ha dormito dentro, se mettiamo tutte le notti che ha passato su questo treno insieme, e quindi aveva anche una sua cameretta, diciamo, con il tavolo quando magari sa gli ospiti, con un apparecchio radio eccetera. Era in Svizzera, lui non sapeva di questo nuovo viaggio, diciamo, di treno azzurro, questo viaggio turistico, quindi si era informato di questo.